dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E bentornati come ogni mercoledì qui su L'Onda in Onda agli studi di Radio Panorama a Termini Merese. Ciao da Andrea e ciao da... dal dottor Antonio Panzica. Dottore, si è laureato. E ovviamente ciao dal nostro Boom, il grande regista. Ciao a tutti. Sempre prima puntata da me, sì. Un calons. Inizia bene con un calons. Sì, ovviamente. La scorsa settimana si è riposato, quindi adesso è bello carico. Sì, è bello carico. Lui mi ha detto, guarda, io salgo a Milano perché mi hanno insegnato delle nuove tecniche per chicchiare in radio. Chicchiare, ovviamente. Termine francese che indica qualcuno che balbetta o non sa trovare le parole adatte. Afasia, ha detto anche. Mi sai distinguere anche quella dell'area di Broca e di Verniche? No, quella ancora non sono arrivato. La lasci ai medici. La lascia ai medici. Fai bene, caro. Allora, diamo subito i contatti. Certo, ci trovate al profilo facebook.com/londainonda con la L, oppure su twitter.com/ondainonda. Potete anche mandare messaggi al 380 7690204, oppure, e poi potete seguirci ovviamente online su www.radiopanorama.info o .eu, dove potete anche vederci in webcam. Chi è già collegato ci sta guardando. Esatto, oppure se siete in giro, siete in macchina, state scendendo e non vi volete perdere le nostre voci mentre state camminando per andare a fare compri nei negozi, scaricate l'applicazione TuneIn, magari l'avete già del vostro cellulare, e cercate Radio Panorama sull'applicazione TuneIn e ci ascoltate in streaming ovunque voi siate. Assolutamente sì, se per ora siete ad esempio su Radio 105 invece mettete 106.4, non so come possono sentirci, però magari glielo suggeriranno da casa. Sai caro, ho sentito che dicono di mettere 106.4, magari il marito torna da lavoro, ecco, vedi, brumma, esatto. Nell'onda in onda. Va bene, allora non possiamo non iniziare questo programma però senza che prima parta la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clappio, doppio, schiavo, che va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Io praticamente ero partito con ed eccoci ancora qui e parte l'applauso. Eh sì, perché il pubblico qui in studio è troppo caloroso. Ecco, infatti salutiamo il pubblico in studio. Un altro applauso, fatevelo da soli. Grandi, veramente. Oggi abbiamo... No, sono 15, che è diverso. Sono 15 contati con i pass. Allora, che settimana hai passato, Andrea, in quel di Milano? Racconta. Ma niente, ho visto un po' di mostre, ho visto il Museo del Novecento. Il Museo del Monocento, perché c'è solo un cento. No, bellissimo, c'era il quadro di Pellizza da Volpedo, il quarto stato. Ma ragazzi, ha detto Pellizza da Volpedo. Che quando stai salendo la scala, quella mitica chiocciola, molto bello. Scala, chiocciola è un par de valle, come dicono a Milano. No, nel senso a spirale, volevo dire. Spirale, vabbè, dove non ci sono graditi. Sì, però intendevo quello. Andateci. E poi bellissima la merda d'artista, quella di Piero Manzoni, sì, bellissima, sì. Quindi non mi sono divertito. Era parente di Alessandro, o dico anche lontano? Non è una battuta, sto chiedendo. Non lo so, effettivamente, però chi lo sa può risponderci al 380 7690204. Domandano del giorno e vincete un bellissimo album. Ve lo dico subito, dei Lady Ubuntu. Lady Ubuntu, sì. Quelli che prima crearono la famosa piattaforma gratuita per Linux. Beh, l'abbiamo anche intervistati. Ah, è vero, è vero, è vero. Quindi potete scriverci o via messaggio, oppure, come sta facendo un'ascoltatrice, venire a trovarci direttamente in sede, qui in via Porta Ercule a Termini Imerese, oppure lasciarci anche un messaggio in bacheca. Secondo appunto me su Facebook. Anche quelli di Termini sanno qui. Io ma sai, Ercule. Ho dei dubbi anch'io, perché c'era un amico che voleva venire a trovarci, mi fa: senti, alla pubblicità venne a pigliare, io non so dove sia. Quindi proprio siamo nella nebbia più totale. Non siamo nemmeno in questo universo. Va bene, e dobbiamo dire invece che oggi, per chi vuole continuare a seguire la nostra rassegna Indie Rock, avremo in interviste Wake Up Call, che due settimane fa dovevano essere intervistati due con noi. Settimane fa dovevano essere intervistati da noi. con noi. Cioè, noi dovevamo andare dall'altra parte e Bruma intervistava tutti. Esatto. Salutiamo l'amica, come ti chiami? Non parla, è una ragazza muta, è muta. È una pesciolina. Facciamo fare un applauso al nostro pubblico, alla nuova arrivata, ospite, sì, la sedicesima, visto che erano in 15. Esatto. Grazie. No. Appunto, ci saranno i wake up call e poi i cacciupa, anche loro prima produttori di Lecca Lecca. Esatto, adesso. E poi invece hanno cominciato a suonare, e infatti non cantano col microfono, ma cantano con il Lecca Lecca in bocca. Va bene, allora andiamo subito col primo pezzo. No, io prima una notizia. Ah, subito? Così, sì. veloce. Io voglio veloce. Fare una citazione. Non parliamo però di Obama. No. Perché... ti dico solo: Andrea, sei un perfetto cretino. Sì. È quello che ha detto l'annunziata a Giuliano Ferrara. Poi notte, poverina, anche lei si è rotta. E vabbè, ricordando ad Andrea la sua condizione di cretino, ci ascoltiamo, come diceva il buon Andrea, il primo pezzo, ed è Marrakesh featuring Amy Skilla con Giusto un giro. Albertino già mi sta dicendo fammi il jingle. Ho una giappa ed una russa, torna a me, bilinguo. Fanno i cori come tu, tu sei old, retro. Mi hanno detto che vieni a ballare con Petru. È un capolavoro al collo tipo Art Deco. E sarei lieto di invitarla dentro il mio chateau. Lei mi guarda e legge Prada sopra la mia zip. E poi mi spara una domanda tipo Sconvol qui. Se me la porto dietro si ficca rimorchio qui. E mi si è attaccata zio come il rimorchio a un tiro. All'inizio sono metà buona e metà no. Shot dopo shot, quelle buone aumentano. No, non sono fatto, è solo un nuovo passo, baby. Chiedo scusa se ogni tanto ti calpesti i piedi. Esco a fare un giro, torno presto, baby. Mi hanno offerto un altro giro e mo non sto più in piedi. Ma perché sono finito qua? Niente di meglio da fare in città. In testa un'altra musica. La la la la la la la la. Dopo la giacca, il DJ spacca. La pista è piena già. Chi non balla viene a galla, andando spesso al bar. Spesso al bar. Nuovo passo lo impari quando finisci la trinca. La trinca. Le code in bagno, le tipe e l'alcol. La la la la la la la. Quando entro nel club il tempo si ferma. Boom, sembra la scena dei cowboy che entra nel saloon. Mi smette di fare su e smette di bere rum. E si alza dal posto come quando arriva il bus. Piacere mascia, il piacere a tutto mio. Prende da bere, dico lascia, pago tu, so io. E visto che le tipe snob non le punto mai, scommetto su questa cavalla come al punto. Tornai e parliamo, beviamo, balliamo, finché la mia drinkarda più buchi della faccia di Cassano. Ti giuro, ero uscito a farmi un giro innocente. Ma sono finito qui perché in giro non c'era niente. Mi gira la testa, usciamo. Dice va bene ma non girarti dietro, c'è il mio fidanzato. E gira e rigira, finisco a casa suo ubriaco. La piace quando vengo, mi giro dall'altro lato. Esco a fare un giro, torno presto, baby. Mi hanno offerto un altro giro e mo non sto più in piedi. Ma perché sono finito qua? Niente di meglio da fare in città. In testa un'altra musica. Ho già visto una cubista che ci sta sicuro. Ma c'è un tipo in pista che mi fissa e mi fa muro. È il suo tipo, si intesisce, vuole fare il duro. Non capisce in fondo, io c'ho gli occhi e lei c'ha il culo. Dice Marra è buono come il cantante degli U2. Lui non l'ha capita, manco arriva a Ligabue. Ci vorrebbe quell'affare con il flash che avevano i Men in Black per farla dimenticare di te. Ho raccolto questi soldi come fiori freschi. So che ce ne sono molti dove ho preso questi. E le cime mi appagano, le rime mi pagano, le tipe mi amano e tu mi detesti. Improvviso come il jet, easy come il jet, bevo tutto nel privé, mi ci tuffo, splash, splash. C'è la marramania, l'amore c'entra poco con la monogamia. Sia! Esco a fare un giro, torno presto, baby. Mi hanno offerto un altro giro e mo non sto più in piedi, ma perché sono finito qua. E ricordandovi che potete ascoltare la nostra puntata su il sito radiopanorama.it sul sito Vara Panorama, perché c'è sempre Vara Media che si accia tra di noi. Esatto, esatto. Radiopanorama.info, vederci in streaming audio e video proprio lì sul direttamente nella home page, e poi facebook.com/londainonda per comunicare con noi, e mandateci messaggi al 380 7690204. Esatto, ma esatto. Io ho una domanda, Fabi, ma voi mi sentite? Sì, sì, sì, noi ti sentiamo perfettamente. Io non mi sento. Sono io che non sento. Non preoccuparti, tu sei diventato sordo. Puoi soltanto parlare. Infatti. Eh sì, eh sì. Allora, iniziamo con le nostre notizie. Compa, su questo allora ci sarà stata gente che, per sai quelli facilmente impressionabili, sarà volato dal finestrino della macchina per la paura. Un po'. Aspetta, questa cosa mi ricorda Dario, il nostro amico, che da piccolo era terrorizzato e si andava a nascondere dietro dietro la poltrona quando partiva, no, la musica dell'Eurovisione, quella vecchia lì. Con queste stelline, no? Che lo facevano spaventare. Lo facevano spaventare, lui era terrorizzato e si nascondeva dietro la poltrona. Vabbè, esatto. Se per questo, ma tu poi mi devi rimettere quel file audio incredibile. C'era la bambina sia viva la patata, sia la bambina del tombino. Quella che chiede aiuto. Il tombino è bellissimo. Sentiamo un attimo la patata per tutti voi. Viva la patata. Questa è la Pretty Signori. Tutti ci vibrare. Dai, qui con la ringa. Vai. Questa sarà a quanto pare l'inno del carnevale 2013. Già ho sentito le prime stime. Cioè, si parla di partecipazione popolare di 1 milione di amanti della patata. Eh sì. Vabbè, tu hai citato Dario, ma Dario è l'uomo dei sogni. Ricordiamo, ogni tanto nelle varie stagioni l'abbiamo ricordato che lui è quello che è riuscito a sognarsi il lavoro, inteso come forza per spostamento, che lo inseguiva di notte in casa. Sì, come una presenza aleggiante. Esatto, e lui tirava le lenzuola cercando di fermarlo. Senti, ma leggi questa notizia. Spostiamoci in America, visto che è stato eletto Obama. Ne parleremo anche perché so che la segretaria del Colle ci ha telefonato. Cioè, vuole dare il suo parere. Perché su siccome Obama. Napolitano è stato il primo capo di Stato a chiamare Obama quando è stato eletto, vogliamo capire bene com'è stata questa cosa. Era proprio al fotofinish, c'erano tutti con la cornetta. Lui e lui è riuscito a prendere la linea all'istante. Ma ci spiegherà come ha fatto. Esatto. Perché io lo so. Lo so che lo sai, perché sei in contatto alla segretaria. Ma invece, appunto, spostiamoci in America. Leggi questa notizia. Calcio del sesso a scuola, voti e punteggi sulle prestazioni delle compagne. Nelle scuole statunitensi lo sport e la competizione sono parte integrante dell'educazione. Un principio portato oltre i limiti se la materia è il sesso e se i voti vengono dati alle performance delle compagne. Per gli incontri del primo tipo tra i banchi esistono così valutazioni, punteggi, classifiche come in un campionato scolastico. In uno dei licei più noti e autorevoli della California, Andrea, non andarti a iscrivere, cioè sono chiuse le iscrizioni. No, guarda che io sono professore onorario. Onorario. È stato scoperto il fantacalcio del sesso. Cioè, gli studenti giudicavano le ragazze della scuola, non sempre inconsapevoli, ste brave fanciulle, in base a bellezza, misure, ma soprattutto in base alle loro prestazioni. Gli atleti in questo speciale campionato a stelle e strisce erano gli studenti maschi, che dovevano cimentarsi in un torneo interno e filmare gli incontri. A ogni studentessa a fine serata veniva dato un punteggio che le collocava in una classifica sexy. Il campionato intitolato Fantasy Slut League. Slut, che significa puttana. Proprio per dire, cioè, Andrea non sa parlare, però sa tradurre solo questo genere di termini. Ma tra l'altro solo questo genere di termini. Letteralmente il campionato di fantasia delle mignotte. Hai visto, te l'ho detto. Però mignotte è più carino. Puttana. Ricorda che chi si astiene dalla lotta. Cosa? Quello che stai che hai pensato. No. È un vecchio detto romano. Chi si astiene dalla lotta è un gran figlio della mia. Comunque, non lo sapevo. La scoperta ha portato all'apertura di un'inchiesta, ma nessuna delle ragazze coinvolte, chissà perché, ha sporto denuncia. È successo a Los Angeles. Sì. Quindi, Angeles è una pippa, perché se gli angeli sono così, io pure. Chiamiamo il capocannoniere di questo. Ma chiamiamo anche. Abbiamo il professore onorario. Senta, professore. No, io guardi. Ma invece chiederei un parere a se sta passando di qua il piccolo. Giannino, se possiamo. Giannino. Michelino, scusi, quello che è il cugino. Giannino? Quello è il cugino. Un attimo, vediamo. Però lo sai che Michelino non entra se non ha la sua introduzione. Quindi vediamo se intanto. Ma scusa, io dovrei. Allora, a me sto bambino sta sul cazzo. Ma io voglio chiedere a lui cosa ne pensa se magari scoprisse un giorno che la sua mamma. Ma ricordi l'amica di Michelino nel tombino? Sì. Aspetta, intanto... vorrei semplicemente dire che questo bambino mi sta sul cazzo. Quindi, intanto, aspetta. Vai, cioè, mi allontano perché okay, il microfono. Intanto vediamo uno. Se la bambina è nel tombino. Prima della. Sì, mi sa che è lì. Quindi, è proprio nel tombino. Cioè. Quindi ora deve passare. Vediamo se adesso è pronto a entrare Michelino. Un attimo. Vediamo. Michelino? Vuoi? Ciao, come stai? Di Bani. È da tanto che non ci vedo. Sì, però più piano perché non riesco a tradurti. Bani. Vai, mi hai incitato. Vai, se vai. Senti, cosa ne penseresti se la tua mamma fosse una studentessa di Los Angeles e partecipasse al campionato delle mignotte fantasiose? Sua mamma è una gran mignotta. Diciamo che l'accetteresti di buon grado. Perché Michelino diventa arabo di punta del punto. Come? ho capito cosa vorresti fare. Senti, ma tu cosa ne pensi invece degli incesti? Dice che da piccolo li praticava, però ora è un po' più grande, ha smesso. Ha dei tratti arabi. Senti, Michelino, tu lo sai che tra poco è giunta... Sei la tua vita? Di dopo! Non ti arrabbiare, Michelino. Arrabbiato, ma perché... Michelino, purtroppo lo sai che stiamo per salutarti, vale. Perché... Ecco, si sta addormentando. Vai. Accompagniamolo piano piano verso la buonanotte. È sempre bello però sentire Michelino, eh? Che ne hai pensato, Andrea? I suoi pareri sono sempre interessanti, secondo me. Bellissimo. Senti, hai una notizia da sparare o ci spariamo un altro pezzo? Spariamoci un pezzo, per favore, sto bambino lo sopporto. Ma anzi, facciamogli un applauso magari a sto bambino. Dai, facciamo un applauso a Michelino che viene sempre a trovarci nonostante le critiche. Ma fa un applauso più che altro a me, grazie, grazie. Che riesce a sopportarlo. Sì, sto bambino. Va bene, allora, prima delle prossime notizie e delle interviste, perché oggi avremo un paio di interviste, se non sì, sbaglio. Sì, i Wake Up Call e i Cacciupa. Perfetto, Wake Up Call e Cacciupa, ma prima di loro ci ascoltiamo Wisin Yandel featuring Jennifer Lopez con Follow the Leader. Hot, hot, hot. Soy dura. dopo aver ascoltato questo pezzo culturale di Bells Bounce Bounce, cioè che ci ha lasciato qualcosa, cosa ti ha lasciato, Andrea? Guarda, tantissimo, meglio di Michelin. Sì, ma noi non possiamo però passare dei pezzi che poi sfottiamo. Era un pezzo bellissimo di Jennifer Lopez featuring Yandel, Bills Bounce, Happy New Year, Merry Christmas. Forte, che bella musica. Ecco, esatto, come dice la signora Angelina del piano di sopra. Com'era signora Angelina, le è piaciuta? La signora Angelina si affaccia sempre a dire la sua. Va bene, c'è solo questo. Io devo salutare mia madre che ci ascolta come al solito e vuole sapere di chi è, cioè chi è l'autore e chi canta Viva la patata. Lo scopriremo, compagno. Ma intanto io ho qualche idea. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci stanno vedendo in questo momento, e noi ci vediamo anche da soli, quindi dico. Io vi indico anche la scena. Ciao, ciao. Sì. E tutti quelli che ci seguono ogni mercoledì con tanta passione. Esatto, come si dice? Sì. Quando uno sta sempre. Trasporto. Trasporto. Ma non neanche trasporto. Mezzo di trasporto. Non so cosa vuoi dire tu. Non lo so. Attaccamento. Sì. Esatto. Come l'attaccamento alla maglia, alla nazione, alla bandiera. E insomma, quindi facciamo tanti. Ecco, la sedicesima. Insomma, siamo contenti e basta. Sì, sì, siamo molto contenti. Ecco che ci saluta. E non ce ne frega più in cielo. Infatti, ma subito ha cambiato telecamera, appena lei inizia a salutare la telecamera in automatico ha un sensore che cambia, switcha, come dicono quelli bravi. Esatto, senti, dobbiamo immediatamente collegarci perché la notizia che abbiamo dato prima. A te non ha fatto sempre ridere, scusami, il fatto che le ragazze mettano la maglietta con Minnie? Sì. Cioè, pensa, è come se io mettessi una maglia del musical Cats, anzi no, un pantalone con la scritta Cats. Ma perché è così questo? Non lo so. Dico, è un dottore. E in effetti a me è fatto sempre ridere questa cosa. Però non capisco perché me l'abbia domandato proprio. Ma perché c'ha la perché lei c'ha la maglietta? Tu sei più cretino di me, compa, perché non è che perché hai un computer davanti, secondo te perché mi viene sta domanda? Perché l'ospite ha una maglietta di Minnie. È vero. Senti, dobbiamo collegarci immediatamente perché con lui. Ma il colle chiama e Radio Panorama risponde. Boom, vedi se riesce a prendere la linea. Io vado un attimo in bagno. Vediamo se c'è la segreteria quella. Vediamo. Sì, dai, sì, è lui. Ci siamo. Dovrebbe squillare. Ma questo è lo squillo del collo, cioè. Non squilla il telefono. Già, non collo. Fa tutto. No. Questa è la segreteria telefonica del collo. No. Mi trovo a Washington. Chiamare lo 001 9945. No. Vabbè, ma vediamo. Vabbè, dobbiamo chiamare quindi. Chiama il numero. Vedi, riprova. Un attimo, aspetta. Vediamo. La segreteria del colle non c'era mai capitata. Ecco, è lo stesso pure Washington. Sì. Comunque. Vabbè, sarà il suo telefono portato. Questa è la segreteria telefonica. No, ci sono scherzato. Presidente. Vengo proprio a Washington DC. Presidente, DC. Salve. Washington DC. No, sì, salve, benvenuto all'Onda in Onda. Tu DC. Sì. Ecco. Buonasera. Buonasera presidente, buonasera. Io volevo che dicesse sì. Le sue pretese ovviamente non si discutono mai. Esatto. Caro presidente, bentornato all'Onda in Onda. Buonasera. Questa è la chiamata intercontinentale. Sì, lo so, costerà. Infatti un po'. È a suo carico. Bravo il nostro regista che non lo sapevo. Paga il colle che siamo tutti noi italiani. Sì, esatto, io non pago un cazzo. Quindi, cari ascoltatori, la chiamata è a vostro carico. Aspetta. Come dici Barack? Come dici? Ma lei è con Barack? Aspetta, con il presidente. Un zendo no cazzo. Sì, you pay for me, for us. Dice che paga Barack. Sì, abbiamo sentito, presidente. Paga Barack. Sì, esatto. Vabbè, tanto 6 miliardi li hanno spesi per la campagna elettorale. Paga solo se sente un altro applauso del pubblico, altrimenti niente. Ma certo, ma presidente, facciamo tutti e due, ovviamente, i presidenti di due grandissimi stati. È contento. Allora, presidente, c'è un mistero che aleggia. Aleggia. Questa notte. Sì. Cioè, quando Barack Obama è stato eletto, lei è stato il primo capo di Stato a chiamarlo per congratularsi con lui. Sì. Come ha fatto? Cioè, c'era mezzo mondo, Glielo spiego subito. Me lo dica. Allora, le faccio una domanda proprio facile. Quando erano i candidati a sindaco, cioè a presidente sindaco degli di Stati chi? Uniti d'America? E due. E quali erano? Erano Romney e Obama. Ha risposto in volatile. E due. E tre. Presidente, lo e sai quattro. Che con le istituzioni bisogna anche a scherzare. Mettersi. Mi può anche chiamare messere. Allora, dicevo. Mettersi al loro livello. Quindi chi erano i candidati? Romney e Obama, presidente. Perfetto. Ora, sono solo due cristiani. Ma io perché? Tu cristiano. Esatto. Ma io perché devo rischiare di chiamare dopo che so? Mitterrand c'è ancora? No, c'è Hollande. No. Ah, vabbè, Margaret Thatcher. No, adesso non lo ricordo. Gordon Brown. Gordon Brown. Non saprendo mai, che è facile. Allora, io per arrivare prima di loro ho fatto una cosa semplice semplice. Vedo che al regista interessa molto. Qual è il problema, presidente? Sto spiegando come ho fatto a fare gli auguri per prima Obama. Come ha fatto? Ancora ho preso il telefono, sì. Ho chiamato sia Obama che Romney 3 ore prima dalla chiusura. Ma come? Ma non vale così. Ho fatto gli auguri, ecco, a entrambi. Ma così è fatto. Ma quindi Romney era casato, era troppo felice. Ma lei come lo sa? Dalle date. Ma ha chiesto, ma lei come lo sa? È diventato. E io ho detto, I know it. Ah, lei lo sapeva. Yes. Lei lo sapeva. Perché non lanciava un'agenzia? No, non poteva fare qualcosa. Ma perché diciamo che più che altro quello che mi ha lanciato Romney mi ha lasciato un po' basito. Perché sì, appena saputo di aver perso mi ha tirato. L'ha richiamata Romney. Sì, sì, mi ha tirato tutti. Ma che le ha detto? Ma presidente, posso provare a imitarlo un secondo? Che poi parte la pubblicità, credo, se non sbaglio. Sì, sì, lei è un grande. Fucking smell, you're a bunch of regular band. Your ass is a fucking asshole. Ah, questo era Romney imitato dal presidente della Repubblica, esatto. Giorgio Sembrava Napolitano. Sembrava quasi la balena che parla. Sì, esatto. Presidente, esatto. Guardi, le sue doti, sì, noi sì. Le ricordiamo semplicemente col grande, grandissimo Silvio Berlusconi. Guardi, era tanto che non provavo a farlo. Presidente, visto, me lo ricordo. E poi ritorna, no? Perché 4 anni fa, quando sì, venne eletto Obama, dice che era bello, giovane e abbronzato. Esatto, invece quest'anno. Ora ha detto, ma questo è un libro è merda, perché non l'ha riconosciuto. Doveva andare avanti. Comunque lanciamo la pubblicità. Presidente, faccio tutto lei, tanto l'Italia è sua, la radio fa parte dell'Italia, quindi è sua. Allora, anche se lei è all'estero. In diretta da Washington DC, ascoltate la pubblicità, comprate e dite sì. Arrivederci. Open Gangnam Style. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 go, go. 오빤 강남 스타일 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 Gangnam Style Gangnam Style Op, op, op, op Oppan Gangnam Style Gangnam Style Op, op, op, op Oppan Gangnam Style Hey, sexy lady Op, op, op, op Oppan Gangnam Style Hey, sexy lady Op, op, op, op Gangnam Style E allora siamo tornati dove ho ascoltato uno dei pezzi più belli, culturali, anche questo degli ultimi vent'anni. Sì, sì, soprattutto con un testo comprensibile. Tipo quello di prima di Dancing featuring Jennifer Lopez. Ci sono venuti a trovare altri due amici, Claudio, il ragazzo del reggae, che però credo se ne sia andato. Ah, no, è andato a fumare, giustamente, ascoltando musica reggae, un po' di erba non fa mai male. Parliamo proprio di erba, subito dopo aver presentato Giorgio. Ma abbiamo anche il buon Giorgio, un applauso per Giorgio che ci segue sempre, finalmente è venuto a trovarci, tutto per te Giorgio. Bravo Giorgio, bravo. Sono, tra l'altro ci seguono sempre in più persone, vediamo le dirette qui in streaming, sì, quindi siamo veramente contenti. Grazie a tutti, soprattutto per aver visto il nostro balletto ridicolo di Gangnam Style mentre c'era la canzone. La canzone, sì. Perché ci vedevano anche se era pubblicità? No, perché lui mi ha infrusato. A te non ti vedevano perché eri messo dietro. Dietro la webcam. Sì, mentre noi. Quindi vedevano, chi vedevano? Vedevano noi. Forse solo voi due allora, il regista e la tipa delle mini. Va bene, allora parliamo proprio di marijuana. Ricordandovi che subito dopo questa notizia un brevissimo pezzo e poi intervisteremo il Wake Up Call. Anche perché dobbiamo andare a onorare questa notizia, giusto? Esatto. Cosa è successo? Che hanno approvato nello stato del Maine, nello stato di Washington in America. Sì, ho avuto paura, è ripartito per la legalizzazione della marijuana. Della marijuana, sì. Era già prevista la legalizzazione per uso terapeutico nello stato di Washington. Ma adesso è prevista la legalizzazione per uso ricreativo. Cioè, se tu ti vuoi fare una canna, perché te la devi fare. Ma era per festeggiare la vittoria di Obama? No, era una cosa a parte. Ah, non è una concomitanza. È concomitanza perché è lo stesso giorno. Però non era referendum, è però casuale. È stato casuale. Ok. Adesso, però, ovviamente ci sono delle limitazioni. Non puoi portartene in giro quanto vuoi, puoi portartene solo un'oncia, che equivale in Italia a 28 grammi. 28 grammi. Quella per cui in Italia rischi la galera per spaccio. Cioè ergastolo. Tipo 6 anni di galera. Internazionale la rischi. Probabilmente. Incredibile. In America invece puoi portartela in giro se ti fermano. Ma lei cosa ha in tasca? No, guardi, ho soltanto 28 grammi di marijuana. Ah no, vada pure, mi scusi, non volevo disturbarla. No, ma infatti oggi ora capisco. Non solo. C'è un'altra notizia che in Francia sono state approvate, come anche in America, non mi ricordo adesso in che stato, ma ve lo dirò subito dopo, la legge che regolamenta le adozioni e i matrimoni alle coppie omosessuali. In Francia, sì. In Francia, mentre anche in America. Mentre in Italia stiamo ancora a discutere se condannato a 2 anni puoi fare il parlamentare o no. Esatto. C'è da pensarci. Ma soprattutto sei condannato a 2 anni, magari non puoi fare il parlamentare. No, vabbè, due anni. Sì, ma soprattutto la cosa interessante in Italia è che se qualcuno viene condannato e va in carcere, non percepisce il suo normale stipendio, ma appena esce, tutto viene reintegrato, quindi continuerà a prendere il suo stipendio. Dipende. In alcuni casi. Che però sono vergognosi, anche se sono solo alcuni. Un pochino. Un po' sì. Vabbè, ci sono dei principi, insomma, vanno lì. Senti, allora, spariamoci subito un pezzo brevissimo. Io so e che ci noi colleghiamo con i Wake Up Call, perché dobbiamo intervistare. Di Obama ne parleremo sempre. Di Obama ne parleremo subito dopo. Va bene, allora, noi spariamo un pezzo, lo dedichiamo tutti alla mamma di Andrea, ma anche a quella di Giorgio, alla mia, a quella di Bumba, insomma, di tutti quanti. Ci ascoltiamo Giovanotti con Ciao Mamma. E dopo questo tuffo con Jovanotti, sono le 19.14, o per chi ci ascolta di notte sono... Eh sì, andremo in replica. Esatto, mezzanotte e 44, dette anche le 1:15. Sì, esatto. Giusto. Sì, però al momento invece siamo in diretta qui sempre dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese e abbiamo in linea per i Wake Up Call Dario. Ciao Dario. Sì, ciao a tutti dallo studio. Buongiorno, mi dicevano che eri un po' così, tipo appena sveglio o qualcosa del genere, oppure no? No, sono svegliissimo, Perfetto, no, pensavamo abbiamo... Perfetto, allora, regista, hai fatto una figura di... Allora, ciao Dario, intanto come stai? Tutto bene? Tutto bene. Perfetto, senti, abbiamo qui tra le mani questo nuovo lavoro che si chiama Batteries Are Not Included e correggimi se sbaglio, è uscito l'1 ottobre. No, giustissimo. È uscito l'1 ottobre, quindi freschissimo. Qualcosa proprio su quest'album, la prima cosa che ti viene da raccontarci, se c'è un'evoluzione dal lavoro precedente, quanto tempo avete impiegato per concepirlo, per registrarlo in studio? Allora, il tempo che ci abbiamo messo è stato parecchio, devo dire. Abbiamo lavorato tantissimo sull'album, anche perché era il nostro primo album, insomma, 11 pezzi, non avevamo mai affrontato una cosa del genere. Okay. E diciamo che comunque abbiamo fatto la stessa più o meno tipologia di registrazione dell'EP, quindi comunque eravamo abbastanza ferrati su questa cosa, non abbiamo avuto problemi. Siamo stati comunque molto contenti, è stata una bella esperienza. Ah, perfetto. L'EP che tra l'altro tu diciamo l'hai soltanto nominato così, però è un EP che ha ricevuto ottime critiche un po' in giro per il mondo. È stato definito una piccola perla di rock and roll. Esatto. Quanto tempo fa è uscito il vostro EP? Già un anno. È un anno. Poco più di un anno, sì. Ho capito. Senti, ma la scelta di cantare in inglese invece di tutte le canzoni? Beh, sicuramente perché in Italia non viene, cioè, diciamo che la lingua straniera non viene apprezzata e proprio per questo abbiamo deciso che dobbiamo cantare in inglese. È una controtendenza. Avete proprio andare esattamente contro quello che ci stanno imponendo. Vi siete imposti di andare contro quello che viene imposto, esatto, contro l'imposizione. E soprattutto anche perché comunque abbiamo molta più possibilità di farsi conoscere all'estero. No, mamma mia, io con le doppie negazioni sono negato, quindi non ho capito nulla. Con le doppie negazioni sono negato, quindi è una triple negazione. Considera che io non so neanche di averla fatta, quindi siamo in due. Perfetto, io lascerei loro due in un dialogo meraviglioso. Me ne andrei e lascerei Dario e Andrea a dialogare tranquillamente. Senti un po', noi intanto in sottofondo, non so se la senti, la stai riuscendo a sentire, sì. Stiamo ascoltando Batteries Are Not Included, proprio diciamo la... come si chiama, Andrea, la canzone che dà il titolo al disco? L'omonima, Antonio. No, si chiama title track, però va bene così. Sì, no, vedi, lui è così, è molto semplice, simple and practical. L'omonima. Senti, il gruppo da quanti componenti è composto? Scusa, oggi proprio con le parole. No, tanto abbiamo capito che i discorsi più o meno saranno così. Esatto, tautologici. Tautologici, ehi là. Esatto, siamo in quattro. Siamo io e il bassista. Sì. Poi abbiamo Tommy alla voce, Olli alla chitarra e Giacomo alla batteria. Diciamo proprio rock nudo e crudo, al minimo essenziale. Sì, esatto. Che a noi piace tanto, a noi garba tanto. Senti, la grafica del vostro album è molto carina. C'è questo cuore meccanico esposto sopra le... Cosa sono queste? Costole, Antonio? Costole sono negli animali. Negli esseri umani. Coste negli esseri umani. No, Antonio, esatto. Qui è medico da poco, quindi ormai lui dirà tutto. La copertina... però chi... mi dice la parola arteria, io no. Sì. Devi dire arteria. Chi ve l'ha fatta la copertina? Allora, la copertina è stato lo stesso grafico che ha curato anche la nostra, diciamo, i nostri design per quanto riguarda le magliette e il nostro logo. Anche con lui, diciamo, ci siamo trovati molto bene, quindi perché cambiare, insomma. Ha capito più o meno lo stile che vogliamo, cioè, a cui puntiamo. Aspetta, ma io ho sentito... È sembrato comunque doveroso. Scusami, io ho sentito la parola maglietta e noi pretendiamo una maglietta, sì, noi infatti, di Radio Panorama. Devi mandarci, una maglietta, sì. Guarda, ne abbiamo addirittura tre, quindi mandati tutte e tre. Benissimo, così siamo facciamo contenti. Cambio, noi ti diamo quelle onde in onda e tu ci mandi, esatto, quelle noi mandiamo dei Wake Up Call. Perfetto. Senti, ma il tour, siete in tour, fate un giro oppure state programmando? Sì, un tour? Sì, dopo l'uscita appunto dell'album stiamo organizzando il tour diciamo europeo, quindi partiremo adesso a fine mese, il 30 novembre, e gireremo Svizzera, passando per la Germania, Olanda. Scusa, regista, mi fai un applauso per il tour in Germania e Olanda? Scusa un attimo, se lo meritano, dai, minimo. Grande, il nostro grazie, applauso, grazie, il pubblico che sveglio. I soliti 15 qui in radio. Sì. Quindi, insomma, bei posti, girerete un bel po'. Già con l'EP avevate girato comunque, perché avete ottenuto anche con l'EP. Sì, l'EP che avete fatto. Sì, prego, vai tu. Sì, scusami, anche con l'EP avevamo, sì, fatto non lo chiamiamo proprio tour gigantesco come questo, insomma, che fa nei più paesi, ma avevamo comunque affrontato date fuori dall'Italia, quindi siamo anche lì abbastanza preparati. Sì, benissimo. Allora, ripartita alla grande, noi vi possiamo fare un grande in bocca al lupo. Ma io prima voglio chiedere quali sono i vostri progetti per il futuro. Esatto, sì. I nostri progetti per il futuro, allora, innanzitutto promuovere il più possibile questo album, perché come ripetevo prima abbiamo lavorato tantissimo, ci teniamo, abbiamo speso un sacco di soldi, quindi dobbiamo almeno rientrarne di un po', perché altrimenti non possiamo più fare nulla. Beh, quello è il minimo. Esatto, e poi sicuramente scrivere nuove canzoni e riproporre un nuovo album tra un anno, due anni, non lo so. Comunque lavorare e fare più concerti possibili. Perfetto. Io devo farti i complimenti perché vedo che tu hai... Te l'ho fatto notare io. Voi avete collaborato con Pino Scotto, che io stimo tantissimo. Anch'io, un grande mito. Anzi, non so come non vi abbia offeso all'inizio quando avete detto: guarda, sai, noi siamo... No, vaffanculo. No, ci ho offeso, tranquillo. Allora grande Pino. Grande Pino, altrimenti non sarebbe stato lui. È come il Natale senza l'albero, non sarebbe Pino. Esatto. Va bene, Dario, noi ti ringraziamo tantissimo. Ancora in sottofondo passa il pezzo che dà il titolo al vostro album. Speriamo che ci manderete le magliette, noi ricambieremo ovviamente con le nostre. Non mancherò, fidatevi, va bene. Perfetto, allora adesso ci ascoltiamo invece un altro pezzo. Ci ascoltiamo proprio Batteries Are Not Included e continuiamo poi con la nostra programmazione, perché abbiamo subito dopo in intervista i Cacciupa. Esatto, e quindi infatti ci ascoltiamo un pezzo ci ascoltiamo di Cacciupa. Ho sbagliato, sono un cretino. Ciao Dario, ciao, grazie Dario. Mille. Ciao a tutti ragazzi, grazie mille. Ciao. Ciao. Stavo così. Attenzione, Michelino, che canta la canzone dei Cacciupa. Ragazzi, io senza parole, meno male che parte l'applauso perché io non sapevo cosa dire. Ma complimenti alla signorina sul video. Intanto Andrea. Sì, perché la notizia. No, come sì. Ho detto complimenti ed è un uomo. No! Esatto, ma hai svelato. Sono rimasto già malissimo. Tutto. Antonio è un maniaco. Ma se non hanno la foto davanti, ma non è che ho svelato sto granché. Ma i Caciupa sono in tutto questo in diretta? No, li intervisteremo subito dopo, c'è la pubblicità. Ma prima dobbiamo dare questa notizia. E la leggerà Andrea, compa, perché ho letto già delle parole che lui riuscirà a sbagliare totalmente. Vai Andrea. Istanbul, un transessuale operato di Mersin in Turchia vuole tornare uomo facendosi trapiantare un pene da un cadavere. Un po' un Frankenstein sessuale. Sì, Frankenstein Piselor. Esatto. La direzione religiosa ha detto no alla sua richiesta e ora DK, scrive il sito Hurriyet Daily News, ha chiesto un'ingiunzione legale. Compa, mentre noi eravamo fuori, lui lo sai che si è letto la notizia. Non è vero, non è vero. Sì, il transessuale di 34 anni nel 2003 si operò per diventare... guardate la faccia di... voi non potete vederla, Claudio. È come se stesse guardando l'acquario di Genova. Avevo la stessa espressione quando ho visto uno squalo bianco io. Perché la foto è in effetti della signori mezzo cadavere. Chiamiamolo Vladimir. Franky. Insomma, è abbastanza avvenente. Si operò per diventare donna prima di sposare un uomo musulmano molto credente. Ora vuole tornare ad essere un uomo, ma secondo i funzionari religiosi non può. Il famoso Luca era gay, compa, sì. Ma adesso torna a lei. Il trapianto di pene sarebbe accettato solo se DK avesse indietro il proprio organo genitale. Ma prendere il pene da un cadavere è un gesto inammissibile. Io voglio vedere chi magari però è notte, è in autostrada, di ritorno da Palermo, da Messina, dalla Calabria. Vediamo cosa c'è alla radio. Prendere un pene da un cadavere è inammissibile. La faccia vorrei dire, tipo quella di Claudio. La Human Support Foundation, organizzazione conservatrice impegnata nella comunità, sostiene il trapianto. Abbiamo analizzato ogni possibile eventualità medica e non abbiamo trovato rischi. Analizzato. Vabbè, certo. Seguiamo oltre 20 persone con situazioni analoghe. Questo tipo analoghe. Di... Madonna. Di trapianto sono normali, come un qualsiasi trapianto di viso o arti. Arti. Non c'entra arti, niente, non c'entra... era bello per chiudere. Sì, non sì. C'entra la signorina, devo dire che è molto avvenente, quindi... Ma no, per un signorino, compa, quindi io eviterei di... E poi la cosa bella di queste notizie, no? È che il nome è puntato, mentre la foto è sparata. Vabbè, perché tu dovresti manca andare solo l'indirizzo della casa. Scusa, ma tu dovresti andare apposta a Istanbul a cercare il signorino. Istanbul non è vero, fa 13 milioni di abitanti. Puoi anche andartela a cercare su Google. Ecco, lui intanto per aiutarla, ovviamente, cosa fa? Subito la sta pubblicando. No, nella nostra pagina. No, la pubblica nella nostra pagina, figuriamoci. Okay. No, va bene, notizie. Non abbiamo ancora parlato di Obama. Obama ha battuto Mitt Romney, anche di, diciamo, di buona misura, credo. 320 grandi senatori, grandi elettori contro 270, insomma, una cosa del genere, forse un po' meno lui. E, tra l'altro, non so se avete notato che lui ha dichiarato a sua moglie: io ti amo come non ti ho mai amato. E la cosa più bella è che ti ama tutta l'America. Pensa che gran qui nudo, compa, perché tutta l'America con sua moglie, insomma, pazzesco. Però questo è amore, infatti. Infatti, c'erano le mogli. Questa Michelle. Vediamo come Michelle ha ringraziato Obama in diretta. Esatto. Basta. Vabbè. Aspetta, proviamo. Vediamo se riusciamo anche a sentire l'audio del marito e lei che risponde. Oh, Michelle, I love you. Really love you. You're the best woman in the world. Oh, basta, yeah. Per favore. E lì si sono allontanati. No, ma la cosa bella è che le mogli, no, di quelli che erano lì hanno guardato i mariti dicendo: ah, quel nudo lo ami. Dove ci sta Michelle? Brava, Michelle, ma bella. Canzone dei Beatles. E poi non so se siete avuto invece di questa notizia incredibile. C'è un imbianchino. Un imbianchino di Cantù. Vedi, Cantù per me, non so per voi, è come quelle città italiane, sai, tipo la casalinga di Voghera. Ma Voghera esiste, cioè sono quelle cose tipo nell'immaginario collettivo. Quindi c'è un imbianchino a Cantù. È come Domodossola. Esatto, c'è solo la D o esiste Domodossola? Ma credo che Andrea ci abbia passato un capodanno a Domodossola. No, veramente. Allora era no. Giuliano con Fabio. Probabilmente. Tra l'altro passato in chiesa. Comunque, Dedo, un imbianchino di Cantù, praticamente cosa ha fatto? Ha creato un video in cui si autosponsorizza per essere chiamato appunto nelle case per imbiancare, perché ha una vaga somiglianza, mica tanto vaga, con Battiato o alternativamente con Frank Zappa, Lucio Battisti. Quindi c'è veramente lo spot su internet creato dal suo amico: perché accontentarsi del solito imbianchino? Chiama Dedo, l'imbianchino che somiglia a Battiato. E c'è lui che ti apre la porta, cioè gli apre la porta lui con lo stereo, cerco un centro di gra... Veramente? Non sto scherzando. Terrificante. E tanta gente lo ha chiamato per farsi imbiancare la casa mentre aveva le fattezze di Battiato. Ma gente malata. malata resiste tanto. Ma Battiato, tra l'altro, che è appena diventato. Per farsi pubblicità, sì. No, Battiato non vuole essere chiamato assessore. Sì, l'ho visto ieri a 8:30. Aveva una grandissima voglia di partecipare a quel programma. A poco ma dormiva. Guardi, non è che io ho tutta questa voglia. Io volessi tornare a Catania. Mancava solo, diceva Lilli, ma perché mi rompi la minchia? Ma perché mi hai chiamato in questo programma in susso? Io parlo solo di cose di tibetane, scienza svegana. Che poi se lo sente un pochettino, beh, vira verso Zichichi, sì, il professore emerito. Diventa Antonino. Se pensate agli atomi come entrano nel centro di gravità e si fanno la permanente, insomma. Esatto, un pochettino vira lui. Sì, sì, lui quando... vira sul Zichichi, sì, è così. C'è il regista che si è affogato, non so che è successo. Io stavo per morire. Ah, addirittura. Battiato, che sarà in Piazza Politeama live l'11 novembre gratuitamente per festeggiare la vittoria di Crocetta. E c'è Claudio che già sta venendo per la gioia. E tra l'altro un mio amico mi ha invitato a una festa di laurea e gli ho detto sì, sì, ci sarò. Ma perché? Perché c'è il concerto di Battiato, francamente. Beh, notizia inutile. Sì, inutile, dire, sì. Inutile, okay, inutile. Era proprio per comunicarlo al tuo amico. Assolutamente sì, se ci sta ascoltando. Deve pisciare, il nostro regista deve pisciare, allora noi subito mandiamo la pubblicità, giusto? Perché devi andare in bagno. E ci sentiamo dopo, sempre su Radio Panorama. Stai ascoltando L'Onda in Onda. It all comes down to this. I miss your morning kiss. I won't lie, I'm feeling it. You're gone now and I'm missing it. I'm so dumb, I must admit. It's too much to hold it in. I can't say no more than this. I just hope your heart hear me now. Don't you know how I'm feeling? Cause he know that it be a rap when I'm riding it from the back. Wait, oh, let me see your phone. Cause all them bitches is ratchet. And now let me get in my truck. Cause all them bitches are catching. Wait, damn, there I go again. I be tripping, I be flipping, I be so belligerent. Man, the shit that we be fighting over so irrelevant. I don't even remember though, I was probably hella bent. Let's go. I'm not living. Siamo là. Antonio, cos'era questa cosa? No, no, no, tu non, non puoi. Non io volevo imitarlo. Non puoi imitare Michelino. Non puoi. Tanto fai schifo. Come... Sembra Michelino con l'asma. Sì, è terribile. Basta. È tra Gollum e Michelino. Sì. E mi Gollum. Tesoro. Va bene, ridiamo i contatti visto che qualcuno magari si sarà certo collegato solo adesso. Allora, potete chiamarci al 320-8327. Compasso tanto il tuo numero, sì, di telefonino, ma non te ne accorgo. Non me ne è fregato niente. Va bene, allora potete contattarci su facebook.com/londainonda con la L o twitter.com/ondainonda senza la L, perché lì dobbiamo risparmiare. E c'è Alessandro. Cosa c'è, Alessandro? No, niente, lui è impazzito. Abbiamo gli ospiti. Ah, sono già, ah, sono già al telefono. Scalpitanti, scalpitanti. E allora diamo il benvenuto. Non so chi di loro ci risponderà. Tu sai dirmi il nome, Andrea? Eh sì, ovviamente è scritto nel nostro acquino, ma lasciato lì dentro. Quindi diamo il benvenuto a Icaciupa. Ciao a tutti. Ciao, ehi, la risposta è da Belluccio. Ehi, ciao a tutti. Come, chi sei tu? Presentati. Davide. Eccolo. Davide Borra. Davide Borra. Sì. Esatto. Borra. Perché avevo più numeri, ho detto mannaggia, ho lasciato il foglio lì dentro come un cretino. Appunto. Siamo in troppi, siamo. Vabbè, no. No, no, ma... il più cretino è Andrea, te lo assicuro, lui è imbattibile. Sì, sì, sì, stai tranquillo. Quanti siete voi nel gruppo? Siamo in 7. Ah, cioè proprio tipo, se c'è posto chiamatemi, mi aggiungo anch'io, bene. Sì, numerosi, numerosi. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo ascoltato poco fa il vostro singolo, Tam Tam, del vostro ultimo album. Parlaci un po' di quest'album. Vabbè, è un cofanetto che contiene 13 brani originali, oltre a queste le canzoni c'è un libro che si intitola Se la tartaruga s'abbronza. È un cofanetto che esce insieme a, in collaborazione con Slow Food. La prefazione a questo libro è stata fatta da i patroni di Slow Food, che è Carlin Petrini e da Gianmaria Testa, e una parte del ricavato andrà per gli Orti in Africa. Esce in tutta Italia la prossima settimana in tutte le Fnac Feltrinelli, faremo anche un tour di presentazione. E il disco si chiama, il cofanetto intero si intitola Terzo Binario, Cacciupa. Ma già guarda, il titolo Se la tartaruga s'abbronza, cioè io mi sono innamorato del titolo, meraviglioso. Senti, io leggendo cazzi davvero. Senti, leggendo un po' la tua storia, la tua biografia, devo dire che mi ha colpito molto il fatto che sia nato il progetto Cacciupa da un sogno che hai fatto in Africa. Quando hai suonato insieme alla gente di uno sperduto villaggio, ora ti chiedo quale, in che zona dell'Africa, e hai intuito appunto il valore della musica come linguaggio universale. E vedo che sei preparatissimo. Abbastanza, vabbè, col testo davanti siamo tutti bravi. Ma io lo sto solo riledendo, ma l'avevo già letto per i fatti miei, caro. Il testo è lungo, ma guarda un po' come deve sputtanare sto stronzo. Vai Davide, tranquillo, no, vai. Vabbè, è nato l'Africa, ti si infila in valigia, no? Quando vai via dall'Africa, almeno a me è rimasta proprio nel cuore. Il mal d'Africa, avevo... il mal d'Africa. Sì. Il Mal d'Africa, esatto. E io sono stato avevo 18 anni e sono stato nell'arcipelago di Capoverde, quindi davanti al Senegal, nell'ultima isola nord che si chiama Sant'Antao. All'epoca non c'era turismo assolutamente, e tant'è che presi 3 aerei e un barcone di banane per arrivare a Sant'Antao. Perfetto. E niente, mi trovai a suonare la fisarmonica con della gente del villaggio, quindi tamburi, una chitarra e una fisarmonica su queste spiagge immense, a mangiare il loro piatto che è la cacciupa, un piatto africano completamente naturale, con dentro c'è di tutto, dai ceci, cereali, anche della frutta o del pesce. E mi sono è scattato qualcosa di diverso. Io ero all'ottavo anno di conservatorio e capì che quella era la musica che mi faceva battere il cuore, no? La musica semplice, la musica popolare, una musica che mi ha cambiato. Infatti questo singolo si chiama Tam Tam, proprio un tam tam tribale che ci libera da tutte le preoccupazioni, le ansie della vita quotidiana, attraverso questo ritmo incalzante di tamburi che ci libera e ci fa sognare. Non so Andrea, ma mi hai fatto venire ancora più voglia di partire e fare un viaggio da quelle parti. No, tra l'altro riflettevo che il secondo cantante che intervistiamo, che ha fatto un album dopo un sogno, ti ricordi? Abbiamo intervistato, sì, quelli di Addio Cane. Addio che, Cane, sì. Ripetiamolo, addio, sì. Cioè addio, ciao, arrivederci. Ma se tu Dio non cane. Lo sottolinei, no, nessuno perché... ci pensa alla possibilità, no, perché... del doppio senso. L'importante è non sottolinearlo. Sì, comunque è vero, è il secondo che intervistiamo e che parte tutto nel progetto da un sogno. Ma tu come mai eri andato in Africa? Era un viaggio così che hai voluto fare per un'esperienza diversa da solo, oppure c'era un altro fine? No, sono andato suonato perché ho un zio che è completamente pazzo e gira le missioni le missioni in Africa, si è addirittura vestito da prete, per, da frate, per portare aiuti umanitari, quindi mi sono aggregato a questo zio, la fortuna di avere questo zio, che dato saluto. Beh, salutiamo lo zio. Salutiamo, presentacelo. Fai anche un applauso allo zio, no? Il regista non ci sente in questo momento, ha problemi in cuffia, quindi scusami, dicevi? No, e questo zio mi sono aggregato e infatti non abbiamo visto alberghi, niente, proprio un viaggio completamente fai da te. Selvaggio, bellissimo, sì, selvaggio. Bellissimo. Senti, no, Andrea aveva caricato il fiato, non vorrei toglierti la donna, potresti restarci secco. Sì, no, perché vedo che avete condiviso il palco, almeno nelle selezioni del Sanremo, con artisti insomma di grossa levatura, Vinicio Capossella, Gioia Bennato, Modena City Ramblers e Casino Royale. Com'è stato insomma stare insieme a loro? Poi queste esperienze voi le avete scritte nel libro. Sì, esatto, vabbè, con Vinicio è stata la fortuna che siamo entrati nella stessa agenzia di Vinicio Capossela, stesso management, quindi abbiamo aperto delle date di Vinicio, è stato molto pubblico e molto esigente, molto particolare il pubblico di Vinicio, no? Quindi c'era parecchio timore, però ci ha sempre accolti bene, perché noi facendo musica balcanica è sempre stato un tripudio, cioè è sempre andato benissimo, anche con Eugenio Bennato, che tra l'altro è stato ospite a casa mia, è nato una bellissima amicizia, anche con Rui Paci, che poi ha collaborato nel disco, ha fatto l'arrangiamento di un pezzo, è stato tutto insomma, poi alla fine le paure sono sparite, è nata anche delle amicizie interessanti, ecco. Quindi dico, considerando anche il tipo di musica che fate, non mi stupirei se voi aveste già incontrato Goran Bregovic, per esempio. Goran Bregovic non l'ho mai incontrato. Ah, peccato. Secondo me è un bel. Però la cantante che è bulgara, la nostra cantante che è bulgara, conosce le coriste di Goran Bregovic, che sono appunto le coriste bulgare fantastiche, che fanno tutto questo canto armonico molto interessante. Sì, è un grande anche lui. È bello che sia nata questa amicizia. Tra l'altro, molti dei cantanti che hai nominato li abbiamo tra l'altro intervistati. Abbiamo avuto la fortuna di intervistare anche Rui Paci. Esatto, sì. Quindi insomma, molto, molto bello. Sì, sì. Sì. Bene. Senti, allora, voi siete in tour oppure ancora no? No, adesso faremo delle date a dicembre nel Frac Feltrinelli e un paio di date in teatro, e poi partiremo poi da febbraio, poi nei teatri, un tour teatrale del 2013. Adesso è appena uscito il disco, cioè deve ancora arrivare nei negozi, e siamo fermi come tour adesso. Ho capito. E invece i progetti per il futuro io lo chiedo sempre, ma mi devi dare una risposta per forza. Certo, i progetti del futuro sono tanti. Noi siamo un'associazione, facciamo anche appunto laboratori, facciamo la cosa più interessante, sta nascendo una collaborazione fantastica con un'artista tunisina per questo spettacolo che andrà nei tour, nei teatri. Il terzo binario sarà un concerto teatrale con appunto delle scenografie fatte da questa ragazza, questa artista molto famosa appunto in Nord Africa, e siamo emozionati perché appunto il disco è molto importante, e insomma non è un semplice disco, ma sono 200 pagine di un libro, è un progetto, vero e proprio. Guarda, allora ti ringraziamo Davide tantissimo per essere stato qui con noi a nome di tutto il gruppo dei Kashupa su Radio Panorama. Mentre in sottofondo stavamo ascoltando il pezzo Marrakesh, adesso ci spariamo Pizzicanta, e ti ringraziamo per essere stato con noi. Allora, grazie infinite a voi, ciao. Grazie, ciao. Canto pizzicando per far ballare il mondo che scappa dalle sue culture, si riveste di fango. Allora canto pizzicando per fermare il pianto dagli occhi di chi non sa più ridere, si veste di bianco. canto pizzicando per far ballare il mondo che scappa dalle sue culture, si riveste di fango. Allora canto pizzicando per fermare il pianto dagli occhi di chi non sa più ridere e si veste di bianco. Pizzicando per chi vive al fondo dell'Africa lontana che balla ancora il giro tondo. Allora canto pizzicando per chi non è stanco e parla la sua terra ancora al passo di tango. E parla la sua terra ancora al passo di tango. Mentre quel pirla del nostro regista va girando per lo studio con attaccato un rastafari peluche. Esatto, peluche si all'orecchio. Si la pazzia. Claudio ci guarda senza parole, credo più per il tuo modo di dire rastafari. Che cos'è? Rastafariano? Rastafarai. Come si dice? Rastafarai? Rastafarai. Ho vinto, e io cosa ho detto? Rastafari. E poi se si è in tanti e siamo a parlare di noi è rastafaremo, capito? Certo. Questo certo. È quando parli solo con lui, tu, seconda persona. Va bene, allora è importante. Non abbiamo so sentito se... questa pizzicanta, ma sì. Tutto questo dove ci riporta? Ci riporta... ci riporta al sud. Ci riporta al sud Italia perché sta per venirci a trovare un nostro amico carissimo. Un sì, nostro amico molto caro. Un nostro amico caro, carissimo che il nostro regista non vuole fare entrare. Esatto, sì, sì, no, ma c'era qualcosa di più interessante. Sì, l'abbiamo visto. Cosa c'era interessante? Non ho visto. No, niente, c'erano le, non donne nude? Donne nude, ovviamente donne nude. Amiche e lui. Sempre. Basta. Allora, te ne vai, per favore. Sembra il cugino di Gigi Alessio questo. Te ne devi andare. Dimmi mai perché... che basta. Sono stato a letto per un giorno intero. Perché non lo mandiamo a casa questo qua? È la fortuna basta. Di quel temporale come ci guarda, stringeva. Guarda che la fine del mondo è fra un mese. Ricordiamo soprattutto il ricordiamo il 20 dicembre alle ore 22 tutti su Radio Panorama. Avremo anche ospite ovviamente d'onore Marco dei Film Brutti. Tutta la sera aspetteremo insieme a voi la fine del mondo. A mezzanotte insomma ci saluteremo per sempre. Non sì, daremo sì, appuntamento infatti. All'altro mercoledì perché non ci sarà più un mercoledì. Non ci sarà più niente quindi nulla finisce. Ma il tu mondo. Come la vedi? Cioè, secondo te noi che succede? Resterà l'anima che pensa? Allora mica io sto cercando spariti. Di contattare tramite sì. un come si chiamano quelli là che fanno i riti, le sedute spiritiche. Massone. Medium. Un massone. Massone. Perché? Che c'entra non il massone? Ma che ne so, sai? Magari il massone. Il conosco. Massone, non lo so. Di contattare tramite un medium i Maya. Sì. Uno dei Maya. Uno dei Maya. Sì. Sì. Non l'ape. E poi ci ho pensato che in romano si dicono, oh, guarda li Maya. Poi se metti lì, alla fine i maiali, compari. Mamma mia. È proprio un idiota. È un livello cioè... radiofonico proprio. Allora, aspetta perché voglio sapere cosa ne pensa della fine del mondo il nostro ospite. Giorgio, avvicinati. Puoi avvicinarti, non avere paura. Vieni, tu che... No, da lì non ti sentiremo mai, ti devi avvicinare di più. Cosa ne pensi alla fine? Intanto saluta. Buonasera a tutti. Sei un po' più forte che non si sente. Buonasera a tutti. Ora sì. Oh, Giorgio. È il microfono. Stava entrando nel microfono, il microfono in lui, dipende dal punto di vista. Che ne pensi alla fine del mondo? Cinque parole. Se ne usi più o meno sei squalificato. Pensaci bene, Giorgio. Ne hai solo cinque. C'hai un conto alla rovescia, per piacere. Aspetta un attimo. Tu hai tempo pure. Non penso che avverrà ora. Non penso che avverrà ora. Applauso. Grandissimo, ragazzi, grandissimo. Applauso. Giorgio, Giorgio, veramente un mito. E ti dedichiamo anche la canzone della patata. Sei pronto, regista? Perché è il premio per chi riesce a parlare con cinque parole. Vai! Tu dici me, prendete le vostre donne e ballate, via! Ehi, ehi, ehi! Che ovviamente essendo la salvezza dell'umanità il mondo non finisce, è tutto, tutto un cerchio che si chiude sulla patata. Ma torniamo al nostro ospite che deve arrivare. Io lo vado a chiamare, tu presentalo. Vado a chiamare, lui è scusatemi se rischio la voce perché ci vuole anche un po' un tono solenne. È un ex medico nutrizionista, infatti visto il tono solenne che sto usando, un ex medico nutrizionista cacciato dall'ordine dei medici perché ha causato la morte di un suo paziente somministrando una ricetta dell'anduia calabrese molto pepata. Lui era malato di ipertensione e il paziente morì. Da allora, per lavare l'onta di questa tragedia, di questa disgrazia, lui gira tutte le radio d'Italia, le radio del mondo, e riesce ad arrivare il mercoledì qui da noi all'Onda in Onda, proprio da radio, su Radio Panorama, a raccontarci quanto sia buona la cucina calabrese e quindi far vedere che appunto non fa male. E allora non possiamo non averlo con noi, lui è Tony Scopelliti, ma prima bisogna ascoltare la sua bellissima tarantella calabrese. Buonasera, buonasera Tony Scopelliti, come sta? Non sento niente, però sei buono. Sta bene, lei non si preoccupi, non si preoccupi, noi la sentiamo. Senta, ma oggi che ricette ci porta? Oggi vi porto una ricetta bastavoda veramente pesante, quindi state leggeri, perché stavoda vi ricordate che vi proponevo cose casa sizza. Sì, i cordoni, i scappelloni, i scaffettoni, tutte cose. Stasera ti faccio una ligurdia. Come? Una ligurdia. La ligurdia. Cos'è la ligurdia? È zuppa di verdure. Ah, perché ligurdia? Beh, perché a me mi pare che è un po' una lurdia. Capisco. Io preferisco una cosa che... Insomma, chi se mi pare troppo pesante? Ho capito, Senta, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori di prendere carta e penna. Carta e penna. Perché domani sera magari potrete fare qualcosa. Certo. Un primo, un secondo, cos'è? Ma lei di solito come lo giudica? Una merenda? Una zuppa di verdure è un primo. Di solito magari è un primo. Vuole dare anche... Anche un'apertura, diciamo. Si può dire che è un pet d'oeuvre. Potrebbe essere un antipasto, un Un blé d'oeuvre. Ma lei ha studiato francese. C'è studiato francese alle colle calabrese. Allora, dunque, andiamo agli ingredienti. Per 5 cristiani, che capito che siamo 5, ci siamo io, lei, du cornuto, non me ne fotte niente che ancora è in bagno, Antonio. Sì. Poi c'è Giorgio, c'è Claudio e c'è Bruno. Quindi Antonio non fa testo. Ma niente. Allora, ingredienti ci vanno 5 kg di patate. 5 kg, quindi un chilo di patate sì. a testa. Anzi, io a proposito di 5 kg di patate, vorrei risentire un attimo proprio basta. Ma proprio 30 secondi. Ma proprio 5 secondi. No, no. Per favore, solo 5. Mamma mia. Solo 5. Patata. E allora pigliate 5 kg di patate. Scusa, era andata al ritmo. Sì. Poi ci vanno 3 kg e mezzo di carote. Sì, 3 che per 5 mezzo. Persone. Su sono... 750 grammi. Esatto. Non è vero perché su 700. Vedi come crea tutte cose, cretino. Allora, poi ci vuole 1 kg di bietola o scarola o lattuga o lattuga o scarola o bietola. Che sono un 175 grammi. Credo di no, però perché un 1000 diviso 5 mi pare che fa 200, mi è pare. Giusto. Però lui dice 175. Ma è la matematica di Andrea. È la matematica secondo me. È la bietola, no? E quindi poi asciuga esatto. e perde peso. Esatto. Qua poi, attenzione, ci vanno 6 kg di sugna. Di sugna. Sugna, chi da bella leggera, sapa sugna chi da che. Sì, esatto. Io per colazione mangio la sugna. Non so quanto so, un chilo e 200 grammi. 6 kg, magari si può fare. Si sì, può giusto. Fare. E testa, poi ci vanno tanto pane abbrustolito. Non ce ne vanno cipolle dolci di Tropea. Ma se vuole, le aggiungiamo. Se vuole, volevo sentire se me la doveva essere attento. Mettiamo tante cipolle rosse di Tropea. Chi da che deve diventare cretino e cullaleto? Esatto. Ammazza pure il tuo bambino. E a proposito, dov'è mio nipote Michelino? Io lo voglio sentire un attimo, se no non vado avanti. Michelino, devi tornare a casa che ti aspetta la mamma. Esatto, lei. Va bene, te ne puoi raffreddo culo. Pace quella, esatto. Quella poi ci vuole tanto pepe russo piccante a scaglie o Apez. Cosa? Apez. È una parola napoletana, vuol dire Apez, cioè è un modo di mettere il pepe russo piccante. Va bene. Sì, perché Apez. Presumo che nella ricetta sia scritto. Ma proprio Apez. C'è Apez. E poi alla fine ovviamente tutto questo che fa? Sale. Perché sale. Dopo che mangi da macchinare tutto sto bordello delle cose. Allora, mondate, universate. Aspetta, questo è il procedimento. Ovviamente, mondate oppure universate e lavate le verdure. Meno la cipolla. Mondatemi, scusi. Universate. Universate. Io voglio spiegare cosa significa. Allora, mondate è quasi tutto. Universate è proprio tutto. Ah, quindi non si è un bene, modo di tagliare. No, è un modo di tagliare. Capisco. Meno la cipolla, più il pomodoro, uguale... Quanto fa? Non lo sa. Quindi poi ponetele una pendola di coccio. No, mondate, lavate le verdure. Meno silenzio, la faccio tutto arrunciato. Bolleranno in abbondante acqua salata per 50 ore. A parte cucite a lungo la cipolla, affettate grossolanamente nella sugna con l'aggiunta di poca acqua. Infine amalgamate le verdure con la cipolla, che è tutto un ingrediente. Unite il pepe rosso, se volete pure la pezza, e servite con le fette di pane nel fondo dei piatti. Vi saluto, grazie a tutte. Viva la Calabria! Grazie Tony Scopelliti, grazie a pezze, alla cipolla. E mandiamo la pubblicità. Restate con noi. Sono le ore 19:57 minuti. Let's go! Stai ascoltando L'Onda in Onda. Eccoci sempre in diretta qui dagli studi di Radio Panorama dopo l'ultima ricetta del buon Tony Scopelliti. Salutiamo un po' di persone che ci stanno ascoltando, sono in tanti, c'è Kurosh, c'è Vivi, c'è Amelia, c'è anche Margherita, noi li salutiamo tutti, sono molto, si stanno divertendo molto, compare. Secondo me hanno sbagliato stazione, se sì, si stanno divertendo. Sì, anche secondo me. Decisamente sì. Però noi li salutiamo comunque. Allora. Tutti! Che cos'è? Chi era? Tutti! Ah, questo è quello di fronte. Giù va. Signora, ma che ne ha pensato? Che ne ha pensato dell'ultimo pezzo? La signora quella cosa. Troppo forte! Che bella musica! Le è piaciuta, è piaciuta. È mica gotica. Allora, Mila Kunis, sai chi è? No. No, compa, non ci credo che non lo sai. Tu che ami le belle donne, non puoi non conoscere Mila Kunis. Quella che ha fatto tipo Amici di letto. No. Niente. Vabbè, è stata licenziata da Dior, la grande casa. Ah, la conosco, perché era pacchiona. Grassa. Sì. Alcuni dicono che sia incinta di Ashton Kutcher, l'ex giocatore di basket, già ex di Demi Moore, quindi tutte brutte da avuto il ragazzo. Attore, tra l'altro, che anche ha fatto. Attore, il film, dai, quale? The Butterfly Effect. Sì. Del quale tu hai un poster rubato. No, l'ho buttato tua. Perché mi sono reso conto che quel film era una merda. Quindi non è una merda. Fa vomitare. Ma non anche è vero, è carino. È terrificante. Secondo me invece è carino. Possiamo continuare. Secondo me è carino. Va bene. Mi piace imprimere il concetto. Intanto salutiamo chi ci ascolta all'1:32 della notte, mentre sono le 20:02 per chi ci ascolta in diretta. Sì, ricordiamo che andiamo in replica. Bruma, perché mi guardi con l'aria di chi vuole essere confessato dal parroco a mezzogiorno? Io aspettavo che finisse di parlare. Ma hai sentito che un po' ricordava Filario? Ma sono un po' sciallo. Ma perché sarà stato con lui più tardi verrà Fidelio. Ma ricordiamo invece che per i nottambuli soprattutto, che smettete di fare suoni al... Basta! Idiota! Lui sta ridendo però, è l'unico, credo. Ma, sì. Per i nottamboli avremo ovviamente Marco dei Film Brutti che vi consiglierà che film vedere questa notte. Sì, tra un poco sarà con noi, quindi anche per i non nottamboli. Ma che facciamo questo fine settimana? Non lo sappiamo. Intanto mentre lui cerca cosa fare questo fine settimana, ti ho colto impreparato. Vi voglio fare una domanda. Voi sapete qual è l'unico deserto in cui tutti sanno sempre cosa dire? Il deserto del Gobi. Lo stavo dicendo. Veramente? Del Gobi. Però non so perché. No, Alessandro non è arrivata, non l'ha capita. Gobbi, sai il gobbo dove scrivono cosa dire? Ah, ecco, perfetto. Il gobbo del teatro. Va bene, allora questo sabato cosa fate? Andrea, te lo scelgo io cosa devi leggere. Certo, aspetta un attimo, quello in cui puoi sbagliare più qualsiasi cosa. No, è un elemento già musicale. Questo però già non è male. No, ma io voglio leggere un elemento musicale. Ma è musicale. Un elemento musicale, in concerto. Ah, è vero. Vai, leggi. Gianni Cavallaro Quartet in concerto. E cominciamo. L'associazione Molo se ne riapre i battenti. No, accendo sulla penultima, Molossene. Riapre i battenti della sua quinta stagione di vita con questo concerto regalato ai nostri soci dal mitico Gianni Cavallaro e dal suo quartet, che durante la serata si trasformerà in una ricca jam session grazie agli ospiti che hanno raccolto l'invito di Gianni. Già raccolto l'invito di Gianni. È un commento del sito. Alle ore 21 ingresso gratuito con tessera Arci al circolo Arci Molossene a Palermo. Molossene, diventato italiano. Molossene. E sì, poi freschette Happy Birthday. Cosa? Happy Birthday. Sì, no, prima. Freschette Happy Birthday, cos'è? In occasione della ricorrenza del primo anniversario del locale si terrà la festa Freschette Happy Birthday. In realtà è terra la festa, ma però tu l'hai detto giusto, anche se c'è la serata. Bravo. Sarà arricchita, oltre che dal buon cibo, dalla musica tradizionale e popolare delle matriosche, dalle animazioni, giocolerie e acrobazie di Kiklos e dal laboratorio aperto a tutti, dice. Compa, perché si incanta su, cioè, a tutti? Allora, devo dire, è dal laboratorio aperto a tutti di Cera. E lui è dal latorio, perché gli sembra troppo lungo, aperto a tutti Al 19, ingresso libero. Freschette, bio bistro in Piazzetta Monte Labonale. Ne dico uno io, dai, tanto per dire, quale vuoi che dica. No, un evento musicale del sabato sera. Un evento musicale del sabato sera, questo è il sabato? Sì, questo è il sabato. Ok, abbiamo la Death Soul Band e DJ set. La serata parte alle 20 con il ricco apericena. E alle 21.30 la band, appunto, Death Soul Band, porterà sul palco brani internazionali scelti ad hoc, rivisitando la black music. Tra l'altro ci sta anche col fatto che è stato rieletto Obama, più black non se boh. Il repertorio è arricchito con molte delle canzoni più famose tratte da grandi artisti internazionali. Ora io ti sparo l'artista, Andrea, e tu mi dici almeno il titolo, mi accenni una canzone, tra i quali Stevie Wonder. Accennala, cantala. E cavolo, non mi viene. Baby Superstition. Superstition, cavolo. Aretha Franklin. Think. Vai, accennala. Think. È Michelino, vuoi fare sentire tu come canti Think? Ehi. Non ce la fai. Non ce la fa neanche Michelino. George Ben, credo sia George Benson, però che non conosco. Vabbè, tu sei un pirla. Ore 20, ingresso libero al Dorian Art Café di Palermo. E poi, addio piacendo, il nuovo monologo di Ernesto Maria Ponte, scritto a quattro mani con Salvo Rinaudo, per chi vuole vedere un po' di teatro. Un monologo su Dio per farci delle domande alle quali ognuno darà una sua personale risposta. Ma le domande principali che escono fuori da questo lavoro vengono rivolte direttamente a Dio. Ma al creatore piace l'uomo così com'è. 21,30, 16 euro il biglietto intero, 14 euro ridotto per i possessori di carte e sconto, 12 euro ridotto universitari over 60 più prevendita al CCP Agricantus a Palermo. Ci ascoltiamo Iggy Pop con The Passengers. Stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. Sing it la la la la la la la la la la la la la la la la. Torniamo in diretta sempre con l'Onda in Onda dagli studi Radio Panorama e sempre non con può... Andrea Massaro e Antonio Panzica e anche ovviamente Brumba. Brumba. Ma non può mancare il nostro appuntamento della settimana con i film brutti, ma prima subito la sigla. Yeah. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. Ed è con noi Marco, ciao! Ciao Marco! Ciao grandissimi! No, il grande sei tu! Bene, te come stai? Tutto a posto! Tutto applausi! Mega applauso per Marco! Senti, ma... Applausi per Marco! Marco, applausi! Risentire la sigla, no? Sì, sì. Non ti fa venire un certo brivido alla dannazione eterna? Sì, senti destinato alla dannazione eterna. Marco, hai questo compito importante. Come ti senti quando di avere questo fardello addosso? Come ti senti? Guarda, mi sento un po' come il sacerdote che invoca il demone Aburim nella croce delle sette pietre. Citazione non male. Citazione il lupo mannaro contro la camorra, ha detto anche. Esatto. Marco, noi... era quello, no? Ho detto male. Sì, era lui. Era vabbè, lui. Bravo, andrei preparato. Sta tutto il giorno a studiare, però poi dimentica l'italiano. Senti, Marco, vabbè, non si può avere tutto. La moglie piena e la botte ubriaca. La botte piena e la moglie ubriaca. Marco, noi abbiamo ricordato dell'impegno del 20 dicembre. Non te lo scordare tu, con la puntata. Puntatona no, per la fine del mondo, cioè, assolutamente ci daremo l'addio. Voglio tutti morire insieme a voi. Questa è la cosa più bella che tu possa dire: moriremo insieme, anche se a mille rotti chilometri di distanza. Che film ci consigli questa settimana? Stasera un vero classico dello zombie di maniera, il mitico zombie horror aka Le Notti del Terrore di Andrea Bianchi, un film del 1980. Ah, 32 anni di età, venerando. Esattamente, sì. Che chiaramente si pone, diciamo, nella lunga scia di tutti i pseudo sequel della Notte dei Morti Viventi. Il canovaccio del film è banalissimo, c'è una famiglia allargata che si reca in casolare in campagna per un weekend e chiaramente dopo 5 minuti cominciano a venire assediati dagli zombie. Dopo 5 minuti di film, cioè realmente. Sì, più o meno, una decina di minuti di scene pseudo-erotiche, diciamo, così per far salire un po' l'atmosfera. Poi chiaramente arrivano questi zombie che piano piano faranno, diciamo, diventare dei loro tutti i membri della famiglia ad uno. Il film si caratterizza per una povertà, diciamo, proprio di sceneggiatura veramente incredibile. Una povertà di trama imbarazzante, oseremmo dire. Sì, veramente, perché praticamente questi stanno dentro la casa, i zombie vanno veramente a due all'ora e loro potrebbero prendere una macchina e scappare in ogni momento, no? Decidono di rimanere lì a farsi ammazzare e comunque contagiare uno a uno da questi zombie che, diciamo, meglio del solito hanno forse le maschere che, diciamo, sono un po' anticipatrici delle maschere degli Slipknot, non avrei presente. Sì, quei mascheroni con quei vermi. Ma infatti stiamo vedendo la locandina del film e si vede in effetti che è molto simile a quella degli Slipknot. Esatto. L'abbiamo già caricata sulla pagina dell'Onda in Onda, come facciamo ogni settimana coi film. Fantastico. Sì. E la cosa peculiare è che questi zombie, diciamo, sono un po' come i Lemmings, non so se vi ricordate quel mitico videogioco per Amiga. Sì, che dovevi salvare i Lemmings. Esatto. I Leggings. Però, i Lemmings. I Lemmings. Ognuno poteva avere una funzione, no? C'era quello che metteva le piastrelle, c'era quello che diciamo si arrampicava, ecco. Qui abbiamo quello che lancia i coltelli, quello che tenta di strozzare, in realtà senza prendere, invece di prendere per il collo prende per le spalle. Sì. C'è invece quello che diciamo utilizza la mannaia per segare la festa nella mitica scena, diciamo, della cameriera, che poverina si affaccia alla finestra, viene inchiodata con le mani alle persiane e poi viene sgozzata, diciamo. Ma tutto questo dagli zombie. Esatto, zombie che vengono bellissima, anche appellati come mostri viventi, questo appellativo particolare, diciamo, che non ha molto senso. Non ha molto senso, vabbè, come il resto del però, film, d'altro. Ecco, diciamo, aggiunge molto, diciamo, calore al film la presenza di Peter Bark, che è questo, diciamo, bambino vecchio che, diciamo, nel film appunto recita la parte del figlio di Mariangela Giordano. In realtà però questo attore, diciamo, era già ultra quarantenne, quindi ha questa fisionomia molto, molto particolare, che appunto nel film concupisce la madre in svariati modi e riesce alla fine del film, dopo essere stato tramutato in zombie a sua volta, finalmente a mangiare il seno della madre. Sì, stiamo vedendo nel vostro sito. Esatto, la scena che vale praticamente la visione. Il film, sì. Anche sì, perché sì, devo dire che la madre ha due gran belle tette. E effettivamente, sì, diciamo, la buona variante da Giordano, diciamo, in tutti i film brutti a cui ho partecipato, diciamo, non ha mai mancato di mostrare le sì, no, sì. Ha fatto la bene. La rincontreremo nel nostro percorso insieme. Ah, bene, meno male. No, ma poi è bello perché l'espressione nello screenshot, mentre lei porge il seno al ragazzo, è di chi dice: vabbè, dai, stavolta te lo sei guadagnato. Mangiami il corpo. Ma infatti proprio è veramente così, perché diciamo alla fine cede, diciamo, a queste voglie del figlio, sperando, diciamo, in quel frangente di salvarlo da dannazione zombesca, cosa che in realtà ovviamente non potrà accadere mai. Che è un film brutto. Senti, quindi, con cosa lo mangiamo questo cosa? Film? Con cosa lo mangiamo? Con cosa film? Lo vediamo? Assolutamente. No, con cosa lo mangiamo, anche se è detta male volutamente, cosa accompagniamo questo film in termini di cibo? Assolutamente con i popcorn al formaggio, che ovviamente hanno questo aspetto un po' putrescente. Sì, diciamo, bravissimo, un po' esatto, di qualcosa che va in malora, un po' come gli zombie. Esattamente, per non parlare dell'odore. Allora potrebbe anche essere, volendo, con formaggio tipo gorgonzola, sai, quello con la muffa stagionato. Sì, però quello è buono, invece proprio qualcosa che faccia schifo, un po'. Esattamente. Perfetto, allora stasera o quando potrete, durante il weekend, consiglia Marco di Film Brutti e quindi anche noi di Radio Panorama, Zombie Horror, Le Notti del Terrore, quindi guardatelo magari anche accompagnandolo con popcorn al formaggio. Marco, che dirti, grazie per i consigli meravigliosi che dispensi ogni settimana per noi. Grazie a voi, noi grazie a voi ci no, tra l'altro dobbiamo ringraziare chi ascolta la rubrica dei film brutti, perché sono arrivate molte mail di gente estasiata da questa schifezza di sì, film. è vero e insomma siamo molto contenti, quindi continuate a seguire la rubrica va alla grande. Marco, insomma, sei il nostro guru ormai. Sì, assolutamente. Brutti, noi speriamo di incontrarti presto al vivo, magari per una maratona di 40 ore di fila di film brutti qui in Sicilia. O se saliamo noi a Firenze. Sì, o magari affittiamo una piazza qualunque. Guarda, se scendi tu, vediamo quattro carogne a mano passo. Sì, sì, assolutamente. Mi sembra veramente il più adatto. Assolutamente. Altrimenti affittiamo Piazza della Signoria e ci fa vedere qualcosa di toscano. Insomma, fai sì. Va bene. Esattamente, va bene. Ti ringraziamo. Grazie a voi, ciao. E ora ci ascoltiamo un pezzo di Bon Jovi, che non so se lo sapete tutti, ma e non è una battuta, è originario di Sciacca, in realtà si chiama Bon Jovi, suo padre macellaio di Sciacca, e si chiama Lie to Me. I ain't too proud of all the struggles and the hard times we've been through. When this cold world comes between us, please tell me you'll be brave, 'cause I can realize the danger when forgiveness fades away. If you don't love me, lie. Thank you. che another one's gonna pull us through. No one said that it'd be easy. Let your romantic your home. But no, if you walk out on me, then darling, I'd be gone. Dopo l'ascolto di Bon Jovi con Lie to Me, siamo qui, credo che ci sia tempo per parlare, no, conoscerci. Sì. Ciao Andrea, come ti chiami? Andrea. Ciao, io sono Antonio. Piacere. Ciao Bruma. No, più che altro abbiamo il tempo dei saluti perché siamo in conclusione e dobbiamo ricordare ovviamente che la puntata andrà in replica, ma per chi ci sta ascoltando in replica non andrà in replica, perché ovviamente sono... Cioè non c'è la replica della replica, non c'è l'effetto Matrioska. No, esatto, non c'è. Okay. Però dovremmo pensarci. Un sì, è carino, alle due di notte, ci apriamo una radio noi, dove facciamo un programma una volta e poi diciamo sempre alla fine la replica della replica. Replica. È così, quando ti colleghi. È come l'effetto quando entri nei bagni dei locali, ci sono due specchi uno di fronte all'altro. Esatto. E l'immagine infinita, esatto. È terribile quella cosa. Bellissimo. Molto bellissimo. Bella, dovremmo ma anche farlo, terribile. Dovremmo un po' farlo. Sublime. Senti, la bambina nel tombino come sta, Brumba? Ce la fai sentire? Chiede sempre aiuto. Sì. È sempre vediamo lì. Aiuto. Ah, vabbè, lascia. Giorgio, puoi andare ad aiutarla tu che non fai radio. Io la cosa che mi domanda è perché nel tombino? Aiuto. Perché, ma poi tra l'altro chiama come se fosse qui davanti alla porta, non da dentro un tombino. Cioè, chi ha salvato questo file nel computer è un idiota. Sì. Non puoi salvarla nel tombino. Non, sì. È, non si capisce dove. Ma non è nel, è del tombino. Capito? È come se fosse, che so, il banco del mutuo soccorso. Lei è la bambina del tombino. Sì, banco del mutuo soccorso, d'altro che ha intervistato un nostro caro amico. Sì, sbagliando il nome per la prima mezz'ora. Sì, io stavo morendo alle risate. Mi fa, guarda che io in realtà mi chiamo Riccardo. Tipo, lui ha chiamato Carlo. Bellissimo. Un'intervista che resta nella storia. Però salutiamo Feedback, che se no ci ascolta e ci resta male. Ecco. Ciao Peppe Peano. Allora, è stata, devo dire, una bella puntata. Io mi sono divertito, speriamo anche voi a casa. Da quello che ci scrivete sembrerebbe di sì. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Tutti gli ospiti sono stati con noi. Cacciupa, Claudio, Giorgio, Wake Up Call. Wake Up Call come gruppi intervistati. Marco e poi gli ospiti qui in studio, Claudio, Giorgio, Brumma, Eleonora Brumma. E poi niente, ciao da Andrea. Lui ciao, era Andrea, Antonio. Io ero Antonio, lui era Brumma. E ci vediamo mercoledì prossimo, lasciandoci sulle note di un pezzo che mi piace molto, anche se ricorda un po' troppo Sting, Somebody That I Used To Know di Goti. Ciao. Ciao. E Goti. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. So when we found